Terra e fumo negli occhi, vento e rivoluzione, il mondo lì da cambiare, senza mezze misure, il coraggio degli ultimi, armi senza sicura, per gettarsi nel fuoco e non avere paura, chi difende se stesso non ha regola alcuna, con le carte migliori la vittoria è sicura, se giochiamo alla pari non c'è muro che tenga. Non puoi correre, sa, sollevato da terra, in mezzo ai giorni il mondo che sogni va. Tra i tuoi doveri e i tuoi falsi bisogni va. Togli quei pesi e il mondo che sogni. Imparare per i tempi migliori in mezzo ai giorni.